Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Per avere un'Italia migliore abbiamo bisogno di una scuola migliore. Quando un paio di giorni fa il presidente della Repubblica Napolitano ha detto questa sacrosanta verità, tutti sicuramente si saranno trovati d'accordo, soprattutto sul fronte politico, da destra a sinistra. Certo, quando poco dopo il capo dello Stato ha auspicato un clima di confronto politico, di serenità, non di scontro, su quello che sono le ipotesi di rinnovamento del mondo scolastico, ecco che qui forse le speranze sono un po' naufragate di fronte alle polemiche che ci sono tutti i giorni sui giornali, dopo il decreto Gelmini, quello del ministro dell'istruzione, che tende a riformare in maniera importante la scuola. Molte novità, sapete, sono entrate già in vigore, quello del voto in condotta che sarà anche decisivo, potrebbe essere decisivo per la bocciatura o la promozione dei ragazzi. Il ritorno all'insegnamento dell'educazione civica, il ritorno ai voti in pagella in decimali, 1, 2, 5, 8, non più i giudizi. E poi è quello che è forse il terreno di scontro maggiore, l'inserimento previsto dal decreto a partire dall'anno prossimo, dalle prime classi, del ritorno al maestro unico. Su questo fronte soprattutto ci sono le polemiche e c'è il dibattito in Parlamento del decreto che dovrebbe essere approvato, diciamo, a giorni, la prossima settimana. Si parla anche di ipotesi di fiducia su questo decreto. Delle polemiche sulla scuola ne vogliamo parlare. Saluto due esponenti politici, l'onorevole Valentina Prea del PDL, che è stata sottosegretaria all'istruzione, oggi è presidente della Commissione Cultura e relatrice del provvedimento alla Camera. Buongiorno onorevole Prea. Buongiorno a tutti. Così come saluto l'onorevole Giuseppe Fioroni del Partito Democratico e ministro all'istruzione nella scorsa legislatura. Benvenuto Fioroni. Buongiorno. Noi andiamo con l'apertura di borsa con Deborah Rosciani, poi vogliamo partire da una scuola di Roma, una scuola che è capofila, si può dire, della protesta. C'è molto movimento, ci sono molte anche proteste da parte di alcuni istituti, e da lì partiremo per questo nostro viaggio nella scuola. 9:11, 800 24 00 24 per intervenire, l'ipotesi di riforma della scuola. Ovviamente con le polemiche conseguenti anche sui i tagli finanziari, si dice 8 miliardi nei prossimi anni di tagli, e anche le razionalizzazioni o tagli di persone, si dice sono 87.000 docenti e 44.000 circa del personale ATO che nella nuova scuola non avranno più spazio, ma avranno spazio, dice il governo, da altre parti. Insomma, le tante polemiche che ci sono su questo tema. Simonetta Salacone è dirigente scolastico del 126° circolo Iqbal Masih e di Roma. La saluto, buongiorno. Buongiorno. Una delle scuole, io dico, capofila della protesta. Tra l'altro voi eravate con i vostri studenti anche all'incontro con il presidente Napolitano. È una delle scuole che ha fatto anche scalpore, perché la ripresa scolastica, gli insegnanti si sono presentati non solo lì con il lutto al braccio, possiamo dire così, no? No, non avevamo il lutto al braccio, guardi, alcuni hanno messo un piccolo fiocchetto nero sul braccio, in realtà avevamo begli striscioni colorati fuori della scuola che dicevano tutta quanta la nostra perplessità e anche la nostra contrasto a questo colpo terribile alla scuola. Sì, senta, le lezioni si svolgono regolarmente, ma la scuola è, diciamo, possiamo dire così, occupata, usando un termine. No, guardi, no. La scuola ha avuto un presidio preannunciato da questo coordinamento genitori docenti dal primo giorno di scuola, dal 15 per tutta la prima settimana. Noi siamo una scuola a tempo pieno, 5 giorni, dopodiché è finito il presidio. Noi abbiamo sempre continuato a fare le lezioni regolarmente. Il presidio consisteva nello star qui in orario extrascolastico, anche di notte, utilizzando gli spazi che avevo detto che si sarebbero potuti occupare senza disturbare gli alunni, quindi un auditorium, due spazi, due atri, due pezzi di giardino, e i genitori si sono praticamente intrattenuti anche fino a notte tarda, dormendo a scuola. E soprattutto durante questa settimana abbiamo avuto incontri con pedagogisti, persone di cultura, confronti politici di varia natura, che hanno hanno veramente costituito un momento di riflessione di altissimo profilo per genitori e per docenti. Cos'è che non va bene? Il maestro unico è il fronte più di scontro sul no, quale... No, guardi, quello che non va bene è il discorso che questa riforma, io non la chiamo neanche riforma, non solo produce tagli rovinosi, ma scardina tutto il sistema scolastico con questa idea che c'è alla base, che meno scuola e meno docenti, quindi meno esposizione dei ragazzini alla situazione educativa, e si hanno risultati più positivi, che è una follia. Allora, meno orario scolastico, meno curriculum scolastico, meno docenti, numero di alunni più alto per classi, questo non può avere dei risultati positivi. Allora, poi no, cominciando dalle elementari, io dirigo una scuola primaria, sì, c'è poi rovinare l'unico pezzo di segmento scolastico che onestamente è stato riformato bene e funziona. Allora, queste, se queste sono le premesse, onorevole Aprea, voglio dire, ovviamente Simonetta Salacone rappresenta una è un dirigente scolastico, rappresenta una fetta, diciamo, della scuola, ma non è l'unica, insomma, il movimento della scuola è un po' in subbuglio. Veniamo alla questione del maestro unico, anche perché lei è relatrice del provvedimento e sui giornali oggi c'è una novità che l'Unità, per esempio, ha definito un nuovo colpo di gelminite, riferita al ministro Gelmini, ovviamente. Cioè, per far partire la riforma del maestro unico, sostanzialmente far passare da 24 a 24 ore di lezioni settimanali, non più le attuali 22, si è scoperto che non ci sono soldi. E quindi, io la riassumo così, poi lei ce lo spiega. E quindi, non ci sono soldi, dice sostanzialmente Tremonti, e dunque a pagare questa novità del maestro unico saranno all'inizio le scuole stesse. È così? Allora, innanzitutto devo dire che prima ancora da dirigente che da politico non condivido nella maniera più assoluta quello che la collega dirigente ha fatto a Roma, perché non si può iniziare un anno scolastico sul piano emotivo coinvolgendo sul piano emotivo famiglie, docenti e alunni, dicendo che verrà messo tutto in discussione, che cambia tutto, addirittura chiamare esterni. Cara dottoressa, stiamo facendo noi questo lavoro, come può lei all'inizio dell'anno scolastico affrontare queste problematiche che oggi sono ancora in discussione in Parlamento? Quindi trovo la cosa veramente non le piace. Disdicevole, no, è grave, guardi. Disdicevole è grave. Parlo no. come dirigente scolastico prima ancora che politico. E va bene, il suo giudizio su questo è netto e chiaro. Però credo che l'amministrazione scolastica debba veramente dialogare con i dirigenti e spiegare che i piani e i livelli vanno tenuti distinti, anche perché noi abbiamo fatto questi errori come scuola, e voglio ancora considerarmi parte integrante della scuola italiana, dagli anni 90 rifiutiamo le riforme e oggi ci meritiamo delle riforme con decretazione d'urgenza e con tempi strettissimi, perché non abbiamo saputo cogliere al tempo giusto le opportunità di riforme di cambiamento che prevedevano tempi distesi e prevedevano molti più finanziamenti. Insomma, lei dice non si è voluto fare niente, c'era l'immobilismo e dunque si è dovuto intervenire così per decreto. Certo, però ma guardi che il ministro Fioroni, sì, che è lì in linea e che saluto, sa benissimo che il suo governo nel quaderno bianco era partito dalla scuola primaria come caso di scuola per indicare i costi eccessivi della nostra scuola, che prevede, che arriva a pagare 2-3 insegnanti per la stessa ora di insegnamento. Ma su questo, sto citando il quaderno bianco, sì, che ha citato anche il presidente Napolitano. Che citiamo tutti. Però mi scusi, onorevole Aprea, così andiamo per ordine. Poi l'ex ministro Fioroni, questo, che è qui, risponderà, certo, per questa parte. Ci spieghi questo? Ecco. Abbiamo previsto coprire le spese delle ore eccedenti rispetto all'orario contrattuale delle 22 ore, quindi se dovessero esserci ore di straordinario dei docenti cosiddetti unici sul modello a 24 ore, di attingere dai fondi di istituto. Ma è un emendamento tecnico che consente alla Commissione Bilancio di approvare la legge, di dire che la legge è coperta, ma è chiaro che si parla di somme sicuramente non significative, perché dobbiamo ancora capire e vedere quante classi realmente funzioneranno solo col maestro unico, sì, e quanti insegnanti da 22 arriveranno a fare 24. Però per il momento non sono somme significative. Queste somme da definire le pagheranno le scuole. No, c'è un anticipo di pochi mesi, perché poi comunque nel bilancio dello Stato sarà prevista anche questa somma. Ma ricordo che proprio il ministro Fioroni ha previsto una maggiore autonomia finanziaria alle scuole e c'è un'assegnazione di finanziamenti direttamente alle scuole, per cui ci sarà anche questa indicazione. Va bene, allora sentiamo. Se nelle scuole sentiamo ci saranno insegnanti che faranno questo straordinario, sì, nella fase iniziale e transitoria pagheranno le scuole, poi dopo verranno, potrebbero essere. Nella fase bisogna stabilire anche quanto sarà questa cifra. Giuseppe Fioroni, per l'appunto, il leader del Partito Democratico, Veltroni, è stato molto duro sulla questione della scuola, si parla di tagli, di volere affossare la scuola. Lei condivide questa posizione da ex ministro e anche quest'ultima novità, insomma, che è uscita oggi sui giornali sulla questione che ci sta spiegando l'onorevole Aprea, potrebbero pagare le scuole questa variante del maestro unico? Ma io vorrei non partecipare alla strategia della distrazione che l'abilissimo ministro Tremonti, il vero artefice di questa innovativa rivisitazione della scuola con la testa rivolta al passato, una delle poche volte che capita nella storia della Repubblica, e quindi mi vorrei riflettere su quello che ha detto il Capo dello Stato partendo dal quaderno bianco. Il Capo dello Stato ci ha dato un grande contributo facendo riferimento al quaderno bianco. Vede, il quaderno bianco fatto da tecnici pone un quesito e chiede come poter migliorare la scuola finalmente con una capacità di programmazione invece che andare avanti in maniera estemporanea o emergenziale, e quindi l'esatto contrario di quello che viene fatto sia con la precedente manovra finanziaria approvata in 9 minuti in Consiglio dei Ministri, forse anche il Ministro della Pubblica Istruzione attuale non ha avuto il tempo di leggerla, di comprendere che cosa Tremonti aveva confezionato, e tantomeno con un decreto che smonta la scuola elementare con altrettanta rapidità. Ecco, in quel piano pluriennale che metteva insieme l'andamento demografico del nostro paese, i pensionamenti dei docenti, le cessazioni dal servizio, l'immissione in ruolo dei 150.000 precari che era stato già previsto dalla finanziaria del governo Prodi, e facendo una simulazione degli andamenti a 5 anni, a 10 anni e a 15 anni, con l'obiettivo di poter operare perché ci fosse un organico della scuola pluriennale e poi tendenzialmente arrivare a un organico funzionale per ogni istituzione scolastica. Ecco, in quel quaderno bianco si leggeva che per abbattere dello 0,4-0,5 punti percentuali, ovviamente, il rapporto tra docenti ed alunni, era necessario 5 anni, e con quel risparmio dall'abbattimento di quel mezzo punto del rapporto noi avremmo potuto aumentare le classi a tempo pieno della scuola elementare dal 25% al 40%, e lo stesso quaderno bianco diceva che questo avveniva non solo sistemando i 150.000 docenti, ma anche incrementando nel 2011-2012, a seguito dei prepensionamenti e delle cessazione del servizio, altri 70-90.000 docenti in relazione all'andamento demografico che comprende tutti coloro che vanno nelle nostre scuole. Però, in una proiezione. Onorevole Fioroni, anche il presidente Napolitano ha puntato sul fatto che mancano i soldi, cioè le risorse finanziarie non ci sono. Bene, ce l'ho qui davanti il presidente Napolitano, questioni più spinose con cui... Ce l'ha davanti, mi auguro che lo stia salutando. Ce l'ho davanti la relazione, ho davanti la relazione del presidente Napolitano. Davanti la relazione, il presidente Napolitano fa riferimento al quaderno bianco che segna anche. Sì, e questo l'abbiamo detto. No, c'è una sostanziale differenza. Vedete, quello che fa questo ministro Tremonti è che in 3 anni taglia non lo 0,5 che il quaderno bianco proponeva in 5, ma lo taglia di un punto in 3 anni, e quindi 150.000 dipendenti del personale della scuola, non assume i 75.000 precari che mancano e non tiene conto né dei prepensionamenti né tantomeno dell'incremento demografico. Allora, avviare un processo di razionalizzazione, che è quello che chiede il Presidente, significa farlo anche nei modi e nei tempi giusti, e soprattutto quel documento segnalava una cosa, che con il titolo quinto non è possibile che qualcuno chiuso in una stanzetta del Ministero dell'Economia possa non tener conto della costruzione di queste scelte in collaborazione con le regioni, con le province e con le istituzioni scolastiche che sono responsabili di realizzare quel percorso che riduce sprechi, sperperi e spese irrazionali per crescere andando avanti. Il fare questo intervento a gamba tesa, tutto e subito, può essere solo funzionale a chi pensa che la scuola italiana deve essere conformata culturalmente al Dio, padre e famiglia e quindi molto probabilmente anche al credere e obbedire da parte delle scuole e dei genitori. Insomma, lei dice è Tremonti poi il vero artefice di questa manovra. Onorevole Aprea, le chiedo, se è fatto tanto riferimento, poi se vuole replica anche ovviamente a Fioroni, ma se è tanto fatto riferimento alla questione pedagogica, l'importanza, il ritorno al maestro unico, il punto di riferimento unico. Voglio dire, in questo non c'è un pochino di strumentalizzazione? Cioè, sarebbe forse più onesto politicamente, intellettualmente dire, sapete che c'è, bisogna far fronte a una riduzione dei costi, a un contenimento della spesa e quindi anche nel settore della scuola come in tutti i settori e quindi dobbiamo ristrutturare il tutto in questo modo. Guardi, noi abbiamo bisogno di realizzare compiutamente quella svolta che abbiamo iniziato ad introdurre con tempi molto più distesi con la riforma Moratti dal 2001 al 2006 senza riuscirvi, ed è questa la situazione che oggi ereditiamo, e l'immobilismo non fa bene neppure alla scuola italiana e i tempi sono più che distesi, perché il ministro Gelmini e noi in Parlamento abbiamo chiarito molto bene che queste innovazioni con riferimento all'organizzazione della scuola primaria entrerà in vigore nell'anno scolastico 2009-2010 solo per le prime classi e solo per le famiglie che sceglieranno questo modulo. Certo, no, Detto questo, noi quindi abbiamo davanti 5 anni per rimodulare la scuola elementare e invece i tagli e il ridimensionamento previsto proprio da Fioroni e da Padoa-Schioppa parlava di tempi diversi con riferimento alla scuola primaria. Certo, non attaccava il modulo in modo compiuto, non lo diceva, però la denuncia che faceva rispetto alle sovrapposizioni di insegnanti e di ore di compresenze e di contemporaneità portavano più o meno allo stesso risultato. Certo, non c'era la scelta del maestro unico, lo riconosco, ma questa scelta va a inserirsi su quelle modifiche ordinamentali che erano state già inserite proprio con la riforma Moratti e che aveva introdotto la differenza tra apprendimenti fondamentali non negoziabili e apprendimenti opzionali. Dunque, se allora con la riforma Moratti avevamo previsto 27 ore il tempo scuola necessario per gli apprendimenti fondamentali, con questa legge si dice che sono di 24 ore il tempo scuola non negoziabile, quindi da considerare come unità organizzativa, appunto, di base per, diciamo, l'acquisizione degli alfabeti essenziali della cultura. Però detto questo, è chiaro che si lascia alle famiglie la libertà di scelta, anche e soprattutto quelle famiglie che volessero occuparsi dell'educazione dei propri figli in orario pomeridiano, perché non possiamo escludere neanche questo. E si recupera la funzione educativa del docente quale punto di riferimento non solo per gli insegnamenti, ma anche dal punto di vista relazionale. Guardi, ma questa è, mi scusi, ma lei sta facendo tutta una spiegazione giusta, e io posso dire dal punto di vista del ragionamento che c'è in questo decreto. Certo. Però le ripeto la domanda in maniera più diretta: non era più facile dire, sapete che c'è, non ci sono più soldi, bisogna ridurre, e purtroppo nella scuola si è anche da un certo punto di vista degenerato e bisogna tagliare, insomma. No, ma così brutalmente. Ma come no? L'articolo 4 della legge dice, inizia così, quello che introduce l'insegnante unico: nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di quell'articolo 64 del decreto 112 convertito con modificazione, cioè nei regolamenti previsti e ulteriormente, quindi significa che non si cancellano gli altri modelli attualmente vigenti, né il modello 27 ore, né quello di 30, né quello di 40 ore del tempo pieno, è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola scuola primaria costituiscono classi affidate. Perfetto, va bene, insegnanti. Va bene. Quindi non abbiamo nascosto nulla, ci mancherebbe. No, ma è chiaro. Allora, due ascoltatori all'800240024. Enzo dalla Spezia, buongiorno. Sì, Enzo, dica. Buongiorno a tutti. E allora io chiedo scusa, ma mi sembra chiaro che... Deve spegnere la radio, Enzo, e dica. Sì, mi scusi. Che questa riforma più che altro non viene fatta per migliorare, diciamo, la scuola, ma è palese che si faccia soltanto per contenerne la spesa pubblica, no? E allora mi chiedo perché si va ad intaccare l'unico pezzo della scuola pubblica che funziona... E magari non si punta a tagliare finanziamenti alla scuola privata, visto che se una scuola è privata si dovrebbe, almeno suppongo in teoria, autofinanziare, no? Grazie, è una domanda che ovviamente raccogliamo e gireremo subito dopo la pubblicità, Valentina Prea. Prima Carlo da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Volevo solo fare una riflessione a tutti quanti. Come genitore, io ho due figli, uno che fa la primaria e uno che fa le medie. La prima cosa è, per esempio, riguarda il fatto che mio figlio, che adesso fa la quinta elementare, quando passerà in prima media non potrà usare i testi scolastici di mia figlia che farà la terza media, quindi a distanza di 2 anni non si possono usare gli stessi testi. Questo credo, questo è cambiato nel decreto, dall'anno prossimo credo che sia previsto che per 5 anni non debbano essere cambiati. Per esempio, noi siamo già sottoposti a costi relativi al materiale da consumo per la scuola primaria, cioè ogni anno a noi ci arriva a casa una lista che ci suggerisce, barra impone, di comprare molto materiale di consumo durante l'anno. Allora io mi chiedevo, perché questa riforma scolastica che tende a contenere i costi non viene mai vista anche sotto l'aspetto del genitore, che comunque ha un aumento di costi costante durante tutto l'anno? Non dovrebbe prevedere entrambi i punti di vista? Grazie. Grazie Carlo. La riedizione dei libri, mi risulta, avverrà solo se necessaria non prima di 3 anni, non 5 della precedente. Ma comunque grazie per la sua domanda. Onorevole Fioroni, le volevo chiedere, lei ha detto che anche nel quaderno bianco messo a punto dal precedente governo di cui lei era ministro, voglio ricordare l'istruzione, la questione dei tagli era già sul tavolo, era prevista, perché sa, molti ci scrivono come al solito a dire ma la scuola, che è fatta di gente straordinaria che fa un lavoro pedagogico fondamentale per il futuro dell'Italia, però è anche diventata negli anni uno stipendificio. Perché allora vi accanite molto politicamente su questa questione dei tagli? Perché credevo di essere stato sufficientemente... Sono troppi, sono stati... No, perché i tempi... Bene, l'ha detto lei ponendo la domanda all'onorevole Aprea, di cui ho colto l'imbarazzo, e come persona che ama la scuola non può che averlo questo imbarazzo. Vede, la riforma della Moratti con le 3 I di inglese, internet e impresa poteva essere non condivisa, ma era figlia di un progetto che riguardava il futuro dei nostri ragazzi e come la scuola doveva concorrere a questo futuro e alla ripresa del paese. Oggi siamo passati da quelle 3 I alla costruzione di una scuola che è la risultante non di un progetto, ma di un taglio di risorse e di una necessità di bilancio. E quando uno affronta il diritto all'istruzione con questa prospettiva, non risparmiando sul futuro dei propri figli, invece che combattere gli sprechi e gli sperperi, certo nella scuola, ma anche in tutte le altre parti della pubblica amministrazione che sono veramente più gravi, più devastanti e non riguardano il nostro futuro, realizza una riforma che realizza solo una scuola inadeguata, invecchiata e impoverita, che era l'esatto contrario della filosofia del quaderno bianco. Un conto è togliere e razionalizzare gli sprechi, gli sperperi, le furbizie, mettere le mani discutendo in Parlamento di come ridurre questa indecenza di 916 indirizzi di diploma di scuole medie superiori che non ha paragone in Europa, neanche sommando e raddoppiando tutti gli indirizzi di altre scuole, di come riformare gli istituti tecnici e professionali, ma anche qui dobbiamo discutere di quali sono i saperi, le competenze che debbono avere i nostri ragazzi. Però onorevole, lei ha letto qualche giorno fa Luca Ricolfi sulla Stampa, il 25 settembre, Luca Ricolfi è anche molto attento, insomma, al centro-sinistra, ha scritto nel... Ho letto con attenzione. Nel suo editoriale Il mito della scuola elementare, no, lo dico per gli ascoltatori, ha detto: stento a capire tutta questa incredibile pioggia di critiche, insulti e manifestazioni contro il ministro Gelmini. Forse perché Luca Ricolfi sa bene che dovremmo rivolgere questa attenzione al ministro Tremonti, che è l'unico che ha governato questo. Vede, tenga presente che quando si è permesso talmente tanto accanimento terapeutico nei riguardi della scuola italiana, che ha spiegato che se per sbaglio lo smantellamento sistematico della nostra scuola non produce risparmio di bilancio, risponderanno direttamente di fronte all'erario i dirigenti generali e i responsabili che non hanno applicato i tagli che sono stati pensati. E questo, se mi consente, è un problema. Quando la Valentina Prea dice: ma le famiglie italiane sceglieranno, anche qui cerchiamo di non dire cose che non sono vere. Sempre il piano programmatico di cui gira recente bozza appena mandata da Via 20 Settembre, cioè dal Ministero del Tesoro, non si parla di opzioni per le famiglie, si spiega bene che il riferimento è le 24 ore e poi c'è una possibilità di arrivare a 27 ore o a 30 ore con una sottile attenzione che si parte dagli organici che ci sono e gli altri, come anche per le 2 ore in più, paga la scuola o pagano le famiglie. Vede, la mia preoccupazione è una soltanto: la scuola non è un ammortizzatore sociale, la scuola è un ascensore sociale per questa Costituzione, cioè un'opportunità data a tutti, dove per merito e non per i soldi che abbiamo in tasca e per la fortuna di dove siamo nati, ciascuno di noi dovrebbe riuscire a fare qualunque cosa nella società. Io ho la sensazione che non diamo l'opportunità alla famiglia di scegliere la scuola che vuole. Io ho la sensazione che stiamo dando alla famiglia l'opportunità di scegliere la scuola che può permettere. Allora, prima di chiedere a Valentina Prea la questione delle scuole private che poneva l'ascoltatore, voglio per un attimo tornare da Simonetta Salacone, voglio ricordare dirigente scolastico al 126° circolo Iqbal Masih a Roma. Ha sentito l'onorevole Prea dire disdicevole l'iniziativa, ma perché la fate? Voglio dire, volete cogliere questa manifestazione di protesta? Io vorrei parlare all'onorevole Prea prima ancora che come onorevole, come una persona che è stata mia collega e si è occupata di come ha detto lei, infatti. Allora, prima di tutto la scuola ha bisogno di recuperare autorevolezza. È certo che quando si dice si pagano più docenti per un'ora di scuola, la scuola non acquista autorevolezza, c'è soltanto la critica falsa, peraltro, a un modo di agire che non è vero. Noi non abbiamo mai docenti in contemporaneità se non con l'insegnante di sostegno per questa meritevole cosa che integriamo i disabili, e nelle 2 ore di contemporaneità in cui sa cosa facciamo noi? Facciamo i laboratori, portiamo i ragazzini al laboratorio informatica, provi a portare 25 bambini di cui uno o due disabili in un laboratorio informatica da solo, oppure facciamo i laboratori di attività motoria, attività grafico-pittoria, facciamo delle cose che servono che prima non c'erano. Lei dice le voglio dire un'altra cosa, me la lasci dire, anche se io ho scritto una lettera aperta al ministro, la quale spero che sta circolando e spero il ministro mi risponda sul perché e come siamo arrivati a una scuola in tempi più lunghi e con maggiore competenza di docenti. La scuola è cambiata perché sono cambiati i bisogni dei bambini e della società. Non si può mettere una gerarchia di saperi in cui alcuni sono essenziali e alcuni sono secondari. Il linguaggio delle immagini, per esempio dell'audiovisivo, è talmente fondamentale perché i nostri ragazzini sono esposti dalla mattina alla sera alla TV, che se non li educhiamo anche in quei linguaggi noi facciamo del male ai nostri figli. Il linguaggio della motricità, il linguaggio della musica sono fondamentali, non c'è una gerarchia di saperi. Sì, e qui parlo da esperta. Allora, quando lei mi dice perché abbiamo fatto questa cosa, ma guardi che noi siamo preoccupatissimi come docenti, come persone di scuola e come genitori consapevoli. Non abbiamo fatto nessuna azione, guardi, di politica non abbiamo mai parlato, siamo entrati sempre soltanto nel merito e tutta la stampa. No, ma vabbè, ma lei dice, lei difende questa iniziativa. Difendo la scuola e quindi la nostra iniziativa. E anche questa iniziativa. Certo, ha il senso di dire alle scuole: guardate, fatevi sentire, perché di noi si dicono calunnie e soprattutto non si fa un discorso sulla cultura della scuola. Mi faccio dire un'ultima cosa: dietro, a parte lo scardinamento per motivi economici, c'è un retropensiero di questo tipo. Quei bambini più piccoli basta avere poca cultura, perché i bambini hanno bisogno di poca cultura. Questo è un po' un arretramento psicopedagogico spaventoso. L'ultima chiosa è un po' un intervento anche politico, visto che lei dice non facciamo politica, ma questa sua ultima considerazione è legittima, voglio dire, però è una considerazione anche politica. Di più competenza. competenze che vengano trasmesse, che sono è l'età di base in cui dobbiamo dare maggiore cultura. Lo dice la pedagogia, lo dice la psicologia. I giochi sono fatti molto presto. O decondizioniamo in età infantile o non decondizioniamo più. Allora, il ragazzo andrà male per sempre. Ecco perché la scuola elementare è molto attenta all'accoglienza dei bisogni dei bambini. Ci sono tanti, ci sono... Io ho insegnato moltissimi nella nostra scuola. È chiaro, torno da lei, rimanga con noi. Come si scaldano le animi, ma la scuola è così, ci piace, è combattiva anche in questo. Si è sempre detto la scuola è noiosa, no, evidentemente no. E allora, prima ci sono tantissimi ascoltatori, però onorevole Aprea, vi prego, risposte brevi, sintetiche e chiare. L'ascoltatore di prima diceva perché non toglie i finanziamenti alle scuole private, togliamo, non il pubblico. Assolutamente, rispetto a questo genitore basterebbe ricordare che dal 2000 queste scuole sono scuole pubbliche e quindi semmai lo Stato dovrebbe garantire gli stessi finanziamenti delle altre scuole, però sono state dette cose gravissime e mi spiace anche dall'amico Fioroni che non può permettersi di dire che pagheranno le famiglie i servizi che lo Stato non darà più. Non è stato mai così, state sbagliando tutto, erano le accuse che muovevate alla riforma Moratti e io sono delusa, non in imbarazzo, caro Fioroni, perché dal 2003 che avremmo potuto risolvere questi problemi. E all'amica dirigente, io non dico cose false, cara collega, perché forse lei avrà la scuola a tempo pieno, ma ci sono moltissime scuole italiane, i due terzi della scuola elementare italiana, scuola primaria, che funziona con 3 insegnanti per 30 ore come modello base e queste insegnanti vengono pagate per 66 ore perché fanno un servizio ovviamente di 22 ore, ma i bambini stanno a scuola 30 ore e in alcune zone d'Italia purtroppo in 20 anni non abbiamo saputo creare strutture, si fermano solo in orario antimeridiano, cioè dalle 8 alle 2, quindi per 30 ore di lezione noi paghiamo 36 ore di contemporaneità senza calcolare le ore degli insegnanti di sostegno, le ore degli specialisti d'inglese, le ore degli specialisti di religione. Tutto questo è troppo, lei dice. Per cortesia. No, è chiarissima. Allora, Enrico da Parma, buongiorno. Buongiorno a voi, salve. La mia è questa, una considerazione velocissima. Dicendo che la scuola secondo me non è migliorata, anzi non si può cambiare ogni cambio di governo e fare delle riforme continuamente, ma detto questo chiedo e rivolgo la domanda soprattutto all'onorevole Fioroni, ma è possibile che tutti quelli che hanno avuto come sottoscritto, che comunque sono brave persone perlomeno, ecco, hanno avuto un insegnante unico alla scuola elementare e siano diventati tutti stupidi? No, quindi probabilmente anche avere un insegnante unico all'elementare potrebbe avere... Quindi lei è favorevole. Onorevole Fioroni, che replica di Enrico da Parma, ha sentito? Ma io non ho... Io vengo dalla tradizione del maestro unico, ma credo che la complessità della società in cui viviamo e l'età di sviluppo dei nostri ragazzi tra i 6 e i 10 anni necessita di una capacità di offrire stimoli e di avere competenze all'altezza della possibilità di guardare avanti. Non serve più l'alfabetizzazione e basta i rudimenti, serve qualcosa di più, perché in quel periodo, come è noto in tutto il mondo, i nostri ragazzi sono maggiormente recettivi e possono avere e dare il meglio. D'altronde credo che non sfugga a nessuno che risparmiare su quella fase è qualcosa che ci fa guardare indietro. Non è un caso che siamo tra la 5ª e la 6ª scuola elementare migliore al mondo per competenze e apprendimenti dei nostri ragazzi, perché ci abbiamo investito sopra. Allora io mi domando, ma con tante cose che possiamo razionalizzare, con tante furbizie e sperperi che si possono sistemare, dobbiamo proprio andare a togliere qualcosa di importante per i nostri ragazzi? Molto probabilmente quello che era utile ed era il meglio per me 40 anni fa, se dopo 40 anni resta ancora il miglior modello, ho la sensazione che vogliamo dire, come disse qualcuno, fermate il sole che non ci gira intorno, ma purtroppo non era così. Raul da Padova, buongiorno. Buongiorno, grazie per lo spazio. Allora, anticipo dicendo che comunque c'è il governo, alla maggioranza deve governare senza tanto star là a perdere tempo, perché in realtà cosa è stato fatto, migliorato in questi anni? Niente. Sta di fatto che comunque Non c'è neanche un maestro unico, già dall'altro anno mia figlia prima elementare è stata indietro già con vari aspetti come l'inglese che non è stato neanche cominciato. E c'è disorganizzazione già anche quest'anno, da un mese che è cominciato l'anno scolastico, non sanno neanche ancora decidere quando è il giorno di ginnastica. Le chiedo, Raul, questo è il problema, insomma, di una disorganizzazione di un mondo scolastico da razionalizzare, ma lei crede invece che, non so, il ritorno al maestro unico, per fare una domanda pratica, che poi verrà affiancato anche dal maestro d'inglese peraltro, certo, potrebbe essere una soluzione, cioè una razionalizzazione a tutto questo? Beh, secondo il mio punto di vista, io sono cresciuto con maestro unico e devo dire di essere stato estremamente soddisfatto, tanto da ricordarmi ancora molte cose. E, comunque le decisioni secondo me devono prendere le altre persone, chi ha l'incarico, e senza star là tanto a perdere tempo, perché il tempo passa veloce. Va bene, va bene. Come ad esempio anche l'economia. Noi cittadini abbiamo bisogno. No, la ringrazio. Beh sì, qua però usciamo un po' dal seminato, nel senso l'economia è un altro, soprattutto in sto periodo molto molto delicato, però rimaniamo sul fronte scuola. Voglio salutare, tra l'altro ci ha raggiunto l'onorevole Erika Rivolta della Lega Nord, buongiorno. Buongiorno. Allora, perché abbiamo iniziato questo percorso con Simonetta Salacone, insomma, dalla scuola Balmasci a Roma, a dire la lotta contro il maestro unico, la difesa della scuola. Era uscita nei giorni scorsi la notizia che a volte ci sono anche scuole dei paradossi, come... Pronto, mi sente? Malissimo. Sì, mi sente malissimo. Vediamo se miglioriamo il collegamento. Sostanzialmente, scuola di Albate, è giusto? In provincia di Como? Il cellulare va e viene. Allora, no, andiamo da un'ascoltatrice, Silvana da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Saluti a tutti. Io volevo... sono una mamma di 3 bambine... E due frequentano già la scuola elementare, una dovrà ancora entrare ancora alla scuola d'infanzia. E io ovviamente sono molto preoccupata per questa, diciamo, la riforma Gelmini, perché io usufruisco del tempo pieno e mi trovo benissimo col tempo pieno così come è concepito, perché è importante secondo me che i bambini abbiano le due figure di riferimento a scuola, la maestra per l'italiano e quella per la matematica, diciamo. E io non, anzi, sono favorevole alla compresenza, perché le classi di 25 bambine a mio parere sono già al limite, e in ogni classe, nella mia esperienza, c'è sempre il caso più particolare, il bambino iperattivo, i bambini che vanno seguiti di più, e quindi le maestre da sole io non so come potrebbero fare a gestire questa situazione. Anzi, il problema esiste laddove c'è il bambino che ha bisogno del sostegno, perché le ore di sostegno in realtà sono molto poche ed è complicatissimo riuscire ad ottenerlo, come pure l'assistente EC. Quindi non capisco come faccia a dire l'onorevole Aprea che a criticare la compresenza. Sì. Io non so. Onorevole Aprea, sì, no, ma è stata chiarissima, Silvana. Il timore è quello: come fare a conciliare le esigenze del maestro unico con il tempo pieno? Il ministro ha detto ce la faremo. Adesso non, poi lo vedremo tra un anno, voglio dire, è inutile dire ce la faremo, dall'altra parte non ce la faranno. Però effettivamente è una cosa che colpisce, cioè come si possono conciliare le due cose. Allora, è chiarissimo. Guardi, innanzitutto la signora è fortunata perché ha solo 2 insegnanti, come ha ribadito. Immagino che lei volesse anticipare il caso di Como delle 9 insegnanti. Sì, abbiamo recuperato antimeridiano. Abbiamo recuperato la antimeridiano. Sì. Quindi questo io vorrei ribadire a chi ci sta ascoltando. Chi oggi chiede il tempo pieno lascia i bambini a scuola dalle 8.30 alle 16.30 e quindi è giusto, normale, opportuno che ci sia una rotazione di insegnanti. Qui stiamo parlando di sistemi, di modelli che funzionano in orario antimeridiano, cioè solo al mattino, con 3, 4, 5, 6 fino a 9 insegnanti. Fino a 9 insegnanti. A questo proposito, siccome quindi abbiamo recuperato... E questa contemporaneità che noi non possiamo permetterci, ma non ha senso. Disorienta i bambini e le famiglie. Onorevole Aprea, siccome abbiamo recuperato l'onorevole Erika Rivolta, eccoci, ci sente bene Erika Rivolta? Sì, buongiorno, Lega Nord. Allora, il caso è quello, limite Albate in provincia di Como, scuola 4 novembre, lei ha fatto un'interrogazione parlamentare, fino a 9 i maestri sono arrivati nelle classi, 9 addirittura. Sì, effettivamente penso che la direttrice abbia sia andata oltre, insomma, noi siamo per l'autonomia della scuola, ma non può che coniugarsi con la razionalizzazione e quindi non si possono sprecare risorse in questo caso, io direi che sono state sprecate, quindi poi sentiremo la risposta da parte del ministro, però che ci sia l'anomalia, questo è certo. Io tornerei, se mi permette, sì, su quanto diceva poco fa sul tempo pieno, che è un'esigenza irrinunciabile, soprattutto nelle grandi città e soprattutto al nord. Io sono anche assessore all'istruzione di un comune di 17.000 abitanti che è Erba e in effetti abbiamo l'esigenza anche come ente locale di garantire ci viene richiesto il prescuola e il postscuola, proprio perché siamo in presenza di una società all'interno della quale entrambi i genitori lavorano. È chiaro. Quindi e questo verrà preservato, secondo lei? E certamente, noi abbiamo chiesto al ministro questa garanzia. La garanzia che venga mantenuto il tempo pieno, perché è fondamentale. Assolutamente sì. Viene tolta esclusivamente la compresenza. Da questo punto di vista, io intanto nel ringraziarla, l'abbiamo presa in coda, ma insomma poi il cellulare non ci ha aiutato molto. Voglio ricordare che credo da 9 siano già scesi a 7 i maestri unici, invece sono 7 in quella scuola di Albate. Da 9 a 7 è già un buon passo. Ringrazio tutti, l'onorevole Fioroni, l'onorevole Aprea, Simonetta Salacone, l'onorevole Rivolta, per essere stati con noi in redazione, come sempre Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi e Giorgio Matè in regia. Ricordo che sul sito trovate tutto, ritrovate o approfondimenti o potete riascoltare la puntata www.radio24.it e potete scriverci alla mail vivavoce@radio24.it. A domattina.